9 cecciano. Prova a fare la portante muta un attimo, modulate 9,60, prova a montare la portante muta. 9,50, modulate 9,60, prova a modulare. Ma si è attaccato? No, già. Se è caduto, cade da 9,50 a 9,60. Così i picchi di modulazione sono. E comunque c'è 9,60, dai. 9,60. Tutto è toccando il DB, non è più un meter. Se 9,50 così, normale, modulati 9,60. Ogni cosa. La radio è bella forte. Sì, un bel forte. Che cosa stai usando? Il processo è attaccato, c'è adesso. Cosa c'è il processore? Eia. No. E che radio è? Una KF. 140? No, no. Vabbè. Comunque sta arrivando un bel forte il radio. KK, già va bene, dai. Eia. Che adesso va bomba. Sei pure troppo forte, abbassa a te. Il microfono? Eia. Aspetta un attimo. Ora. Così va bene? Ehi, già lasciano così, già. Un po' di più, ne do, no? La frazionale è zero, non ce n'è. Proprio, ma va a dire uno. Sembra che abbia migliorato anche come prestazioni l'antenna. E chi è? Sono io, tu. Ho cambiato apparecchi perché ho dimenticato l'altra accesa. Perché questo qui ha bisogno di caricare un po', dai. Di caricare, perché se no si scaricano il condensatore. Già lo so, già. Comunque qua mi tocchi il DB adesso. Poco fa? È uguale, non vuole più. Va bene. Ciao. Adesso più tardi facciamo le prove con fuori, con sorso, con qualcosa. Se entra qualche numero sono 12. Ma penso che abbia migliorato anche la loro, Se ne ha radio di più vanti. Cosa stai usando? L'MC60? No, negativo. Che microfono è? Si può occupare. È un HF. Il microfono, che microfono è? Chi è che è entrata lei? Adesso non mi ricordo. Non ha niente a che fare con l'HF quello. Che cosa? Quello è un baracchino, non è un HF. Già lo so. Ma allora, quando hai sentito Gianni che c'è un HF col bip? Ciao, comunque, buonasera. Buonasera, sto scherzando. Io l'ho sentito l'HF col bip, quello di Pomponio c'aveva il bip. Questo microfono è il bip, ma io sono il bip da HF, il microfono. Va bene, dai, non continuo, dai. Ma chi sei? C'è un bel forte. Stava girando e rigirando, l'avevo capito. Chi era? Lo sento molto più forte. Ciao Fra, ciao Gianni, ciao Antonio. Ah, si fa con la sorso. Eia. 9:30 Radio 5. Ciao, continuate, dai, sto facendo cose. Gamba, vai fare, e poi ti arriva sorso. E a voglia. A voglia, sì, anche troppo forte. Capo, ti giuro non l'avevo riconosciuto, non l'avevo perché mi arriva talmente forte adesso che... E beh, siete più vicini, dai, in linea d'aria. Però il segnale è molto diverso adesso. E beh, non vale che abbia una diversa ricezione, se la metti più in alto. Grappa. Senti che sta arrivando fortissimo a sorso. Grappa, grappa. Grappa, già, l'MB più 4, Sì, ma gli hai fatto qualche cosa, perché prima non uscivi così forte. È una modifichetta. E dilla anche a me, così me la faccio anche. Non lo so. Bisogna chiedere al maestro, non lo so. Sì, vabbè, comunque, già c'è forte anche il mio. Cappa cappa, non ne ho proprio idea, Cappa cappa. Ah, così è, vabbè. No, ti giuro, perché non l'ho fatto io. Cosa c'è sta? Ah, il bambino sta giocando. È monello. Oh, yeah. E così in girella, tu? Ecco, il bambino. Dove c'è andato a vedere i negozi? No, con Pietro Italia così, ma non faceva perché c'era freddo. È freddo, c'è. Non è il tempo. La mattina quando c'è il sole si sta bene, ma poi se vai all'ombra, avevo freddo. Sì, si è congelato, se la male che è caduto, che è sopra la capicciuria. Ah, no, non fanno uscire di sera, c'è troppo freddo. Io devo uscire perché devo portare il cane, ma mi cancareggio, mi muta, e mo' sciarpa, tutto gatto, mi saccarrato, ma c'è sempre freddo. E questo anche domani devo uscire alle 7. Cioè, già da adesso io devo uscire da casa, devo andare a Verdi a ritirare l'impianto. Ah, non c'è spettacolo? No, Luca, oggi finisce. Ah, ho capito. No, pensavo che ci fosse spettacolo al Verde. Che cosa c'era? Jet. Jet! Mamma mia. Oh, che musica baralocca il jazz, mamma mia. Non ti dici il trombone? Vabbè, io ho fatto una volta. Mamma mia, cazzo. Lui ha detto, cazzo, mamma, anche non ti innate. Comunque, venga il neck, lo facciamo noi, facciamo anche le gambe. A voi dove? Alghero. Ma in contemporanea, lo stesso giorno sono, no? È 31 a Capuano. Tu dove sei? Oh, non so se sono a Sassari o sono Alghero. Cappaga. Ma è te, uca. E io non vado a rubare tu. Ehi, avrebbe un po' cuore di bracchetto che accade. Ah, te ce l'ho in buono. È buono. E vabbè, ci sono gente un po' corta, poi tornando a casa, un casino. C'è gente che guida corta. Guarda, io moto già, se vuoi c'è anche a Sassari, non abbiglio che moto. Non è amare che li venga. Sì, no, non fa fidarsi, perché se ne vanno via la piazza, bevono, fanno. E poi si mettono alla guida, capito? Allora, no, già. Che tra l'altro lì, vicino a casa dove c'è la rotatoria, questa macchina ha suonato a quest'anziano, cazzo, che gli stava andando contro, gli si è sbattuto e poi si stava sbattendo a un muro, è partito tutto accelerato, c'erano i vigili urbani, si sono fermati, scendo dalla macchina, e non ci scendo, un anziano è a cotto di più. Prenda la macchina, dobbiamo fargli cosa dal contesto. Io mi sono fermato col cane, cazzo, guardato, non ho fatto male a una mosca, si gira questo vigile e mi fa, a lui le serve qualcosa, a me non mi serve niente, a lui qualche cosa gli serve, gli ho detto. Cazzo, e chi dava il gomme era tu che mi volete dire, no, se non mi si. No, dice, gliel'ho chiesto perché ho visto che si è fermato. E ho detto, se mi sono fermato è con cognizione di causa. Ho fatto 17 anni di servizio ambulanza, ho pensato che si fosse sentito male il signore. Quindi mi sono fermato per quello. Ah, ecco, scusi allora. Questo è scaggiato. Ma tanto cercano sempre di attaccarsi, capito? Senza che tu fai niente. Cioè ero col cane tranquillo, non è? Io mi sono fermato perché ho visto quest'uomo, cazzo, si è cuttuto una macchina, da qui si recco degli muro, ha fatto il tempo a frenare, cazzo. Perché si sono sbattuto dal muro dei mormoni lì. Magico. Dopo sono ritornati e c'era sempre lo stesso vigile e mi hanno trovato di nuovo davanti, ma non c'è ancora il grimbato. stavano prendendo le misure, invece se ne vogliono prendere la patente adesso. Ma cosa ne fai una persona che si comporta così, le lascia la patente? C'era il figlio, ha detto che ha dato una festa, che non si ubriaca mai, che ha dato una festa e sicuramente ne ha approfittato, capito? Allora, però la patente è già ritirata, non è perché non bevi mai, tu l'hai fatto reato, quindi non puoi dire che non è successo, tu hai fatto reato, è un reato quello. Lui era prepotente, dicevano fermi la macchina, mi dia le chiavi, scendo dalla macchina, mi dia le chiavi, non gli do proprio niente io. Oh, carità, va. Poi come se ne è sceso, ne hanno preso subito le chiavi della macchina. Oh, oui, wow, lascia perdere, va. È allucinante. Va, per carità. Magari è successo davvero così, non era tipo che beveva, magari è andata a una festa, ha bevuto, lui ha detto sì, ho bevuto, però al contesto non le faccio. Ho bevuto perché era una festa, gli ha detto. Però al contesto non le devo fare. No, se non lo fai è come che l'hai dichiarato. Ma basta così. Allora funziona così, se tu lo fai, se tu non lo dichiari, l'hai dichiarato anche a voce, quindi sei passibile, se. Se tu non lo dichiari e non lo fai, ti rifiuti, se come che tu abbia bevuto, no, non ne ha tutti nulla a me, capito? No, il secondo passaggio è che ti portano a fare le analisi all'ospedale. Sì, sì, te le portano a fare lì, però per il momento sei così, poi l'hai dichiarato pure tu. Io ho bevuto perché non mi vengo in piedi. Se quel signore mi ha suonato due volte, stavo uscendo dallo stop, mi ha suonato due volte e mi è andato contro. Pensa tu, oh, io sono patente, non ne vede più. E dopo in brutto ti ha continuato, si è sbattuto, l'ha preso per fuori strada e poi ha continuato per la sua strada, capito? Verso il muretto, si stava per sbattere al muro, gli hanno gridato, si fermi, mi giro il bar. Per carità, guarda. Se fai male per pulla carina. Però non so come mai in contemporanea all'incidente c'erano i vigili urbani dietro, è un caso, oppure magari l'hanno segnalato questo qua che guidava male, che ne so. Non ne ho idea. E comunque il giorno dopo sono venuti a prendere tutte le misurazioni e c'era di nuovo quello lì, poi a Gesù la bella, dello Gurugai a Pisa. Non ti può dire niente, tu sei un libero cittadino, sei andente, boh, non sei venuto ai mari. Ma tu, da quando gli hanno dato questo potere di polizia, loro ne stanno approfittando. Ne stanno approfittando della divisa che hanno, perché adesso fanno tutti di più i servizi di polizia. Se si affara la cosa, si affara di lui in casa, mi gira a casa, sono arrivati, hanno preso nomi, tutto qua. Uguale, non c'entra niente. Beh, hanno fatto un giuramento come tutti gli altri. Prima compiti di polizia perché avevano, facevano solo compiti di polizia urbana, di vigili urbani, si chiamavano vigili urbani perché vigilavano la città, mettevano multe, facevano queste cose qua. Adesso c'erano proprio compiti di polizia, arrestano anche le persone, hanno fermato gente con la droga, eccetera, eccetera. I motociclisti hanno beccato questi qui spacciando vicino alla scuola i ragazzi. Per carità, qua. Vabbè, sarebbe anche giusto, va. No, c'è una mano in più, cioè, però quelli che hanno più giurisdizione sono la polizia, sono i carabinieri. Una cosa è avere una mano in più, una cosa è approfittare della divisa che hai e pomparsi per quello, perché cioè io non stavo facendo nulla, sono venuti loro a rompermi le scatole, capito? Cioè io ero lì che stavo guardando, punto, non ho fatto niente. Ma appunto non ti possono fare niente, la faccia in culo, si buona. Ma siccome siccome io non me ne posso morire di nato, ho detto, a me non mi serve niente, c'è lì qualche cosa che serve. No, no, sto chiedendo perché ho visto che si è fermato, pensavo che mi dovesse dire qualcosa. Io, lui, assolutamente no. Io per il problema ma non ci sono, accettare. Lo faccio diventare un'associazione forte. Cosa tu? Allora il problema in mano il ciso. Il ciso non c'è più, non esiste più. Non so, noi lo riprendo. Lo riprendiamo in mano, lo faccio diventare un'associazione forte. Ma per prendere il ciso in mano bisogna chiamare a Roma, farti rilasciare tutto, vabbè, è un casino, non è così. Come apri un'associazione diversa, quindi per fare anche 118, il ciso non poteva fare 118 perché era scritto all'albo nazionale, non a quello regionale, quindi 118 non ne poteva più fare. Già non so, già, eppure è strano, è che appunto torna, mi pare lo offende. Perché si mettono sotto un altro nome, Croce Pentagona, mi pare. Ma il dottore se mi pare che non è fa di urgenza. Vabbè che a me mi hanno detto che se succede qualcosa e c'è bisogno di un'urgenza, allora lo prendono e partono con le sirene lo stesso, non ne frega niente. Vabbè. Ma mi sta chiamando mia moglie. Me ne dai due secondi? Vai, vai. Uno e due. Da me. Dimmi. Eccomi qua, sono ritornato. Bravissimo. E beh, c'era proprio. Non ho capito. Ho detto, a mangiare devi andare. No, ancora no. Io ho chiamato la pizza, ho chiamato. Ah, e hai fatto bene, così avevano stato a fare piatti e cose. Io gli ho fatto la trippa. Era una di chi non li faccio più. Buona, bella terra era. Buona, sì. Una volta ogni tanto ci può fare, che è grassa la trippa, non fare così ma è grassa. Già non so già che è grassa, cioè, però se la mangio una volta ogni tanto non succede nulla. Guarda, ieri era lo zimino, ma tutto bianco, rosso, quel negozio nuovo che hanno aperto andando a prendere Anita, quello tutto il giorno si chiama, non lo conosci, andando alla rotatoria e prendere Anita. Sì, tutti i giorni. Cazzo, c'era lo zimino, sia rosso che bianco, ma bello, ma già cotto. No, fanno anche la fainina, sai. Me l'hanno detto. Fanno frappettini, farine, come so come. Allora io lo zimino me l'ho comprato da poco. E lo so, ne ho comprato due pacchi. E ho acceso la graticola elettrica, ma lo sai che non ha fatto buono anche tu. Io pensavo di no, invece ho avuto pazienza, aspettare. È proprio buono. Cappa, chi è che vuole entrare a parte? Mi date un controllo di radio? Ma bomba, sì. A forza allora? Sì che bomba, già, come esce? Prova, guarda un po' già, il microfono ce l'ho a 6. Già va bene, è un po' cupa come radio, ma... magari un tipo di microfono. Guarda, se te lo metto al massimo cosa cambia? 1, 2, 3, vedi un po'. Ma più o meno è lo stesso tu. Che microfono è? È un MB già, C4. E avrà la cassa originale sicuramente. Sicuramente sì. Quella volta che fa Cantonio mi piace. Ma ho capito già, scusa. Quella volta che ha fatto nell'MV più 4 d'Antonio mi piace. Ah, quella non è che gli ho fatto la classica modifica, Ponticello, Vicendosio. Se no non ci gusti. Anche la capsula è cambiata. No, assolutamente. C'è una capsula di quelle marroni, classiche, originale. E in più gli ho messo il tastino per disattivarla anche la modifica, capito? Perché magari non è a tutti che piace, c'ha l'opportunità di disattivarla. Quando è che te lo porto il mio, me lo fai? Quando ti piace, però devo guardare se c'ho un pulsantino, se la vuoi fatta disattivarla. Se no devi abbassare l'amplificazione, capito? E basta. A me non mi interessa disattivarla, se non voglio, ma pompa. Allora sì, se ti dicono qualcosa che è troppo rimbombante o cosa del genere, abbassi solo l'amplificazione, ma chi quando vuoi passamelo già. Tutto, come si dice, era troppo forte anche la natura, stasera era una bomba. Questo è invece tutto normale, macchina al massimo, microfono al massimo, questo è normale, vergine normale, fatta. Quando vuoi portamelo già che te la faccio quella modifica, me lo lasci, su che radio lo stai usando? Sul Galaxy. Vabbè, già al limite, già mi faccio già lo spinotto io, per metterlo nel 48. L'attacco è invertito, praticamente gli attacchi di sotto sono sopra e quelli di sopra sono sotto. Sì, sì, no, ma io c'ho un coso già che mi sono fatto tanti anni fa, un classico spinocchio a 4 con i fili saldati, e faccio le connessioni così volanti quando devo, capito, non tocco le connessioni del microfono. Va bene, portamelo quando vuoi. Una cosa ricambi, componente? Eh sì, faccio lavoro all'interno, tutto nella scheda. Prima ci facciamo delle modifiche, devo ponticello, doppio ponticello, triplo, ma io l'evasivo, dici, ma non è che ci ammavo un granché. Io adesso per dire la modifica, come esce? Esce bene comunque. Tu dici di non toccare? Oh, qua va bene, però se lo vuoi come quello di Antonio me lo devi portare e lo faccio. Vabbè, ne tengo conto, era una battuta, ma comunque ne tengo conto. Ah, figurati già. Capo, ma chi sono? Maria. Ero anche passato, Ma c'è la modifica inserita? Eia, l'ho anche passato perché ero troppo forte. Non ce n'è. Kappa, oggi vuole. C'è la cappa originale. Immagini già di apponire tipo tarne o capsule diverse. Ne buco i microfoni. Cosa Natale? Che fanno casino! E la radio non è presente, è una radio un po' così. Boh. Io non so come fanno a piacervi i microfoni fracassoni così. Ma perché è troppo forte? Anzi, è basso mio adesso, non è che... Ma la radio non è la tua. Hai capito cos'è il discorso? Io vabbè. È al minimo proprio, va. Beh, ciucucciù, il treno partito è, ciucucciù. Avanti, ciucucciù. Non è a voglia, ciucucciù. Capo, al minimo, non è alto. Ciucava nella modifica, Antonio, se comprendi chi sono lì. È impossibile, aspetta un attimo. Dovrebbe andare bene così, dai, l'ho tolta la modifica. Gli ho dato solo un po' di più il microfono. Quando la voce è chiara, che si capisce, va bene. Ma poi può essere alta canto di baretti e biati, ma quando non si comprende chi su chi di, non farà nulla. Ma ora io mi sono sentito e ci senti, va bene, con un altro apparecchio. Però dai, se la tolgo e basta, non c'è a posto. Certo, magari quando... Signore, ce n'era uno cazzo che aveva la radio potentissima, però si capiva quello che diceva, capito? Eppure io mi sono ascoltato e funzionava benissimo. Vabbè, magari molti fanno in giro se monta radio, capito? E che ne so, io se esci bene te lo dico, mica stai uscendo bene, se esci male ti dico guarda che stai uscendo male, non ti posso dire che esci pessimo, è incomprensibile la radio, magari è colpa della radio mia, amico, capito? Io lo sento bene, Natali, è fortissima ma lo sento bene, le parole le capisco. E da me invece invece fa quel difetto lì, cosa vuoi che ti dica? Sarà, infatti ho detto, sarà anche colpa della radiologia. Capito, io non è che lo metti in dubbio, no? Sì, a volte c'è il terrato, ma lo faceva con l'altro 140, quando non parlavano con quei baracchini modificati, non comprendevo nulla. Perché bisogna mettere il coso, come si chiama, c'è un pulsante da schiacciare, se arrivi troppo, pure a me è successo. Io non so, le nebbie. Aspetta, che attacchiamo la mia voce. Lucca, ripetitela, cosa stai combinando, cosa stai progettando? No, ho finito di stampare questa sera, ma sto facendo quel supporto. Adesso sto mettendo a posto saldatore, pistolaria a calda, cacciavriti, nastri isolanti, via. Sempre bene, dici, sempre bene. Mi stavo stampando anche la supporto che mi serve. Non so se l'hai visto quello con la carrucoletta. A me lo sai che cosa mi serve? Un supporto per il telefonino, perché quando canto per non tenerlo in mano. È un supporto dove si possa, ci sia la parte di sotto dove possano passare i fili, che non mi dia fastidio. Perché quando canto lo devo tenere in mano per rompere il pane, a volte non me ne accorgo e tocco il tasto e mi risponde il telefono, mi dice se mi serve qualche cosa, eccetera, eccetera. Ma ogni volta che ho un gatto mi succede più volte, ma invece quando lo metti sul supporto basta che guardi per vedere le parole. No? E cosa c'entrano i cavi? Allora, c'entra perché sotto io attacco lo spinotto per le cuffie e l'altro per la carica batterie, perché a volte mentre canto carica, capito? Perché a volte lo scarico, si scarica un po' in fretta quando canto, quindi lo lascio attaccato e lo appoggio sul tavolo. Però se ci fosse un bel supporto dove ci fosse lo spazio per passare gli spinotti o almeno magari una finestrella in modo che possa attaccare gli spinotti, quello già mi servirebbe, perché quando canto lo devo tenere in mano, se lo vendono i cinesi vado e lo compro. No, lo so, se lo vendono, io determinate cose le faccio da zero, capito? Perché non perché magari non esistono, perché magari ci vogliono il nome, ci vogliono un cuoricino, ci vogliono delle cose, capito? Personalizzate. È così che prima lo disegno, dopo in base alle misure, eccetera, eccetera, lo fanno. E che materiale li metti per stamparlo? PLA oppure PETG, dipende da se devo... Se devo fare qualcosa che deve fare all'esterno, cioè alle piogge, al sole, eccetera, oppure se deve fare dentro casa. Ah, che cosa è tradotto PLA, PLG, che sono ignorati una teglia? È una pratica classica, mentre l'altro resiste di più alle intemperie, agli anni, capito? Come le bobine che mi sono fatto per questa tipologia di antenna, te l'avevo mandato le foto, mi sa. PLA tiene, dipende da cosa deve fare, se una cosa deve fare trazione o forza, o se deve fare solo lì, allora si può usare anche il PLA, dipende da cosa devi costruire, ecco, e a cosa deve servire l'oggetto, se deve fare forza, se è una cosa tipo gli isolatori per i dipoli che devono sopportare le trazioni, i cavi, eccetera, eccetera, allora, capito, uso il PETG, anche per le bobine, perché durano anche di più come nel tempo, ecco, capito. Ho capito. Una bella cosa, io non la conoscevo come macchina. Se ne sono da tanto. Ne sto vendendo anche un'altra, non sto vendendo. Se interessa a qualcuno. Basta, ti compri i filamenti che alla Sullo o su Amazon o su eBay, li vendono fatti da un chilo. un bobine da un chilo, lo metti nella macchina, poi ti salvi il file nella CD o nella micro CD a seconda la stampante, e naturalmente fatto il progetto, poi guardate le misure, fate alcune modifiche se c'è da farle, eccetera eccetera, come temperature e tante altre cose, e poi la inserisce la CD e te la stampa. Vabbè, ma io lo so, ma con tecnologico non mi piacciono molto queste cose, cioè mi piace vederle funzionare e fare dagli altri, ma io non mi piace farli, dai, nel senso che no, magari non riuscirei, non lo so. Ma cosa? Si dice come già. E avrò spazio per metterla, ecco, perché deve stare in un piano che non vibra, soprattutto a livello, eccetera, eccetera. Se uno di quei piani lì, poi non fa altro che accenderla, metti la... ti scarichi il progetto, ce ne sono anche migliaia di cose, di file già pronti, ci sono dei siti, Ingivers e tanti altri dove scaricarli direttamente i file. Quello che ti piace, anche su corti di telefoni, ci sono, tutto bene, tutto. Migliaia e migliaia di oggetti pronti a stampare, metti nella micro CD, la metti nella macchina e vai in stampa. Infatti tu non devi fare altro. È come se fai una stampa, diciamo. Esattamente, è come la stampante normale. Tu metti in stampa, ti dice il computer quanto tempo, una volta che fai il processo, ti dice quanto tempo ci vuole, quante ore o minuti a stampare, capito? E la mandi in stampa, è da Azure, no? Non devi seguirla per niente, capito? Avanti, buon pomeriggio. Popolo, Antonio. Antonio si è demoralizzato. No, sono ritornato al telefono. Vabbè, ci teniamo un po' già che finisco qua di mettere a posto. Cattarini, ripeti. Sto mangiando, vai, vi ascolto. Buon appetito. Ragazzi, è arrivato a mangiare, dai, ce lo sentiamo dopo, più tardi, se coincide, se no domani. Ciao, ciao, ti mani, dici, devo andare a mani, allora. Ci sentiamo. Ciao Luca, ciao Cattarino, ciao Antonio. Ciao, ciao, ciao. Ciao Gianni, ciao Antonio, alle prossime. Gianni.